Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. La voce dell'innovazione, 16:32, Luca Tremolada al microfono. Oggi qui con noi Alessia Maccaferri, buongiorno. Buongiorno. Scrive di No Profit, Fondazione e altro per il Sole 24 Ore e per Nova 24. È andata a The Hub, sbaglio, a Milano ed è tornata con due storie. Esatto, sono andata a The Hub a Milano, che è un centro di innovazione sociale, un network mondiale che è aperto anche a Milano, e lì si trovano delle storie interessanti di imprenditoria sia for profit che non profit. Ve le proveremo a raccontare tutte e due, una riguarda la bicicletta, l'altra riguarda l'ufficio realizzato con materiali di recupero, ma prima le news. Fa un po' tristezza. Jim Carrey e l'ex modella di Playboy Jenny McCarthy hanno annunciato su Twitter di aver messo fine alla loro relazione durata 5 anni. L'annuncio, in 140 caratteri, recita così: le sono molto riconoscente per i momenti felici che abbiamo passato insieme e le auguro il meglio. Che Twitter fosse diventato un social network ricco di star era chiaro. Trasformarsi in un generatore di comunicati di VIP pare però un po' troppo. C'è anche Nokia, il primo produttore mondiale di telefonini, alla corsa al tablet inaugurata dall'iPad di Apple, almeno secondo l'opinione di analisti di settore vicini alla casa finlandese. Al momento, ha spiegato al sito finanziario TheStreet.com Ashok Kumar, analista di Rodman & Renshaw, la catena di fornitura mira ad un'uscita in autunno. La tavoletta targata Nokia dovrebbe quindi essere nei negozi per settembre-ottobre. Microsoft prova il metodo Steve Jobs. In rete sta creando grande attesa per l'evento di lunedì prossimo a San Francisco. Secondo il Wall Street Journal, saranno presentati cellulari con una vocazione spinta per il social network, pensati quindi per una clientela giovane. Nome in codice Project Pink, progetto rosa. Il nome certo lascia un po' a desiderare. A parte che lascia desiderare, poi vedremo lunedì che cosa avverrà in quel di San Francisco, ma la storia che vi raccontiamo oggi è una storia che parla di dei pony experts a pedali, se non sbaglio. Noi abbiamo qui Roberto Peia, buongiorno. Buongiorno. Poi ci sarà una scheda che parlerà di lei e tutto quanto, ma chiediamo come è nata l'idea? Certo, beh, un'idea metropolitana innanzitutto. Un'idea molto metropolitana, un'idea in Italia, a Milano, non molto nuova, ma in realtà in America e nel resto d'Europa è abbastanza vecchiotta. Ma io sapevo a Bombay di un servizio di Pony Express fatto chiaramente con le biciclette, così, però precisissimo, dove praticamente tutto funzionava con i colori, perché non tutti sanno leggere, scrivere, eccetera, eccetera. Sì, le esperienze di Bike Messenger sono praticamente mondiali, ci sono nelle realtà più, tra virgolette, arretrate, come nelle grandi metropoli, come ad esempio la Grande Mela. E noi abbiamo copiato questa idea, a Milano funzioniamo ormai da quasi 2 anni e funzioniamo anche molto molto bene, ormai abbiamo più di 100 clienti felici e contenti di essere passati alla bicicletta, molte di queste aziende fanno anche il bilancio socioambientale, quindi possono mettere... Sì, perché voi chiaramente non inquinate. Noi siamo a emissioni zero completamente. Però arrivate dopo il motorino. Assolutamente no, in moltissimi casi siamo molto ma molto più veloci. Vabbè, mandiamo la scheda. Mountain bike, bici da corsa o a scatto fisso? Roberto Peia, 54 anni, le ama tutte e tre. Giornalista professionista e ora imprenditore, Peia è convinto che soprattutto in una grande metropoli la bicicletta non sia solo il migliore mezzo di trasporto, ma un ottimo strumento di comunicazione. Per questo, assieme a due amici, Andrea Vulpio e Luca Pietra, ha fondato l'anno scorso a Milano Urban Bike Messenger, ovvero il Pony Express in bicicletta. Il servizio non offre solo vantaggi dal punto di vista ecologico. Potendo sfrecciare in mezzo al traffico, nelle ore di punta i tempi di consegna sono spesso inferiori rispetto al pony tradizionale. Qual è il vostro vantaggio competitivo? Com'è che riuscite a bruciare la concorrenza sui tempi? Beh, in tantissimi casi noi possiamo fare delle scorciatoie che un motorino non potrà mai fare. Per esempio, passare sui navigli, sui ponti, noi prendiamo la bicicletta in spalla, se devo andare da via Torino a via Tortona, arrivo sul naviglio e in un secondo sono di là, un motorino deve fare tutto il giro. Se devo andare invece da sud a nord, da Porta Romana alla RAI in Corso Sempione, passo per il parco e in un attimo sono arrivato. Senza contare poi che sensi unici, se il traffico è bloccato faccio salto sul marciapiede, salto giù. Sostanzialmente passi col rosso, cioè tutto, cioè il vantaggio competitivo che diceva Alessia è passare col rosso. No, non è vero. Sometimes. Ecco, ma l'altra cosa è che però nei grandi, cioè si immagina, chi non lo sa, adesso cito una via di Milano, Viale Monza, però che è tutta dritta, ha dei semafori, lì perdete. Non è detto, perché appunto innanzitutto gli ascoltatori devono pensare che noi non abbiamo le biciclette classiche da postino da 30 kg, noi abbiamo per lo più bici da corsa o bici da pista come nel mio caso, quindi sono biciclette di 8-9 kg, noi siamo, non dico ciclisti professionisti, ma abbiamo delle belle gambe, nel senso che abbastanza muscolose, e quindi possiamo appunto fare dei tratti anche a 30-35 km orari in città. Quindi assicuriamo sicuramente dei tempi completamente competitivi con chi va a motore. E come fate a gestire gli ordini, no? C'è una, vi comunicate con il cellulare, usate attualmente sì, in Italia non, a differenza di altri paesi americani e europei, la radiolina non conviene perché problemi di frequenza, l'autorizzazione ministeriale costa, quindi oggi le nuove tecnologie, i nuovi cellulari ci consentono di fare cose molto più veloci e più a buon prezzo. Noi abbiamo ovviamente una centrale operativa presso The Hub. Adesso stiamo sviluppando anche un software gestionale che, oltre a fare fattura, staccare i tagliandi eccetera, darà anche la possibilità di avere il tracking, cioè la localizzazione. Ti seguo sullo schermo. Sì, cioè, per cui se mi chiama il cliente in Piazzale Loreto, io vedo che Pietro è in Corso Buenos Aires, manderò lui invece di Marco che è a Lorenteggio e quindi è molto lontano. Oppure se vedo che due biker si stanno incrociando e magari uno sta andando in una direzione e il secondo ha un plico che deve andare in quella direzione, ci potrà essere uno scambio al volo e quindi anche noi possiamo in questo modo ottimizzare i tempi. No. Tra l'altro, cioè, la cosa che è super interessante è il fatto, insomma, che non utilizzate un decilitro di petrolio per fare tutto neanche ciò, una goccia. Ma costate il triplo, no? Sì, no, assolutamente. I nostri prezzi sono concorrenzialissimi. Prima di iniziare la nostra attività, ovviamente, però, perché fatto... il ciclista deve mangiare, nel senso che, cioè, è vero che anche il motorino deve mangiare, però è un po' sì. Ma la pasta asciutta, grazie a Dio, non è che costa ancora tantissimo in Italia. Sicuramente costa meno la benzina. Che com'è che vi dicono i clienti quando vi avvicinate? Cioè, noi siamo un gruppo in bici, cioè siete percepiti come degli ideali, degli idealisti, delle persone che inseguono? Ma dipende, noi abbiamo clienti un po' di tutti i tipi. Ci sono i manager che ovviamente hanno studiato e lavorato a New York e a Berlino e hanno visto che lì il delivery più veloce è quello che va in bicicletta e quindi ci accolgono a braccia aperte, sono contentissimi, sono ovviamente molto contenti che la loro azienda possa vantarsi di un delivery completamente ecologico. Ci sono molti altri che ci hanno scelto perché condividono la filosofia green che sta dietro alla nostra impresa. Ci sono quelli che è di moda e quindi no, prendiamo c'è anche questo. Un aspetto di moda. Sì. Sì, cioè, sì, c'è sicuramente anche questo e noi come cavalchiamo bici e cavalchiamo mode. Tu ti sei fatta un po' conquistare dall'aspetto di moda o ti ha conquistato più il fatto del fatto che c'è una logistica dietro a un ragionamento di questo tipo? A me ha conquistato innanzitutto la bicicletta, visto che, uso, vero, che la uso anch'io. Roberto, come sta andando avanti il progetto a livello nazionale? Prima mi accennavi che c'è l'idea di creare un network, sì. Come lo farete? Sì, noi ovviamente essendo stati primi in Italia siamo stati sotto i riflettori da parte di molti ragazzi di altre città. Infatti è partita poi due società a Roma, a Catania, a Bari, a Parma e sta nascendo a Firenze, a Bologna, a Pescara, a Bolzano, a Brescia, a Bergamo. Abbiamo iniziato quindi con un Google Group a mettere insieme le nostre conoscenze e le nostre risorse. Abbiamo fatto un social network. Un mese fa ci siamo visti fisicamente a Firenze e abbiamo gettato le basi per il primo network nazionale di Bike Messenger. In modo tale da poter condividere risorse e, perché no, clienti. C'è un ascoltatore che scrive: anche chi guida il furgoncino mangia, nel senso che è vero, io sto dalla loro parte oggettivamente, però va detto che insomma voi non fate il lavoro del furgoncino, cioè quanti chili potete portare? Noi nei nostri zaini possiamo portare fino a 7 chili, però abbiamo anche una bici cargo, un bullet, è una bici appunto da trasporto, da non confondere con i tricicli, che può portare fino a 50 chili. Quindi lo diciamo ai furgoncini: quando vedete una bici cargo, ecco, sono loro. Siamo per cui noi. Attaccate, non so, cercate di sgonfiargli le gomme. Passiamo al secondo ospite, lo presenti tu. Davide Rampanelli lavora in un laboratorio che si chiama Controprogetto. E sentiamo subito la scheda. Dopo la laurea in disegno industriale al Politecnico di Milano, Davide Rampanelli, che oggi ha 31 anni, entra a far parte della Stecca degli Artigiani, dove si vive un'esperienza sociale partecipata. Lì, nel 2003, insieme ad altri neolaureati al Politecnico, nasce Controprogetto. Il laboratorio lavora con materiali di recupero, promuove l'autocostruzione mettendo a disposizione della collettività strutture e competenze, organizza laboratori di progettazione partecipata per spazi pubblici. Allora, storia completamente diversa questa. Tra l'altro tu sei designer industriale, cosa vuol dire? Sì. Cioè, spieghi. Si chiama design industriale, in inglese si traduce design e riguarda la progettazione di prodotto. Il nostro percorso è abbastanza lontano da un percorso industriale, perché siamo partiti da una produzione artigianale, quindi da un lavoro personale, manuale sugli oggetti. Sì, infatti nella scheda viene detto molto chiaramente questo aspetto di artigianato del... Sì. Come è declinato? È declinato attraverso la costruzione e la promozione della cultura del fare sui materiali, e quindi noi costruiamo personalmente i prodotti che vendiamo, gli allestimenti che vendiamo, e allo stesso tempo coinvolgiamo persone in laboratori di costruzione partecipata, all'interno dei quali insegniamo come costruire e autocostruire mobili e oggetti vari. Uno dei progetti più interessanti che state seguendo è quello dell'ufficio sostenibile. Sì. Pensare l'ufficio in tutte le sue parti, dalla stampante al computer, sì, alle cartucce, in un'ottica di recupero e di sostenibilità. Sì. Come state lavorando e con quali altri soggetti? Dunque, noi siamo solo una piccola parte di questo progetto, che è un progetto di network all'interno dei quali è coinvolto anche Urban Bike Messenger. È un progetto che è nato all'interno della rete The Hub, quindi questo è sicuramente un ottimo caso di partecipazione, di network, di diverse realtà imprenditoriali. E all'interno di questo progetto noi ci occupiamo della fornitura degli arredi, degli allestimenti dell'ufficio. Ecco. Nova Lab 24. 16:47, siamo tornati in trasmissione, stiamo colloquiando con Davide Rampanelli, ci sta spiegando un po' il suo idea di ufficio sostenibile, sì. Sì, poi diciamo che è una parte del nostro progetto, quindi è abbastanza integrato, nel senso che portiamo avanti molti... Ecco, mi spieghi diversi. Perché c'è un'espressione che noi poi su Nova scriviamo anche spesso, che è l'esperienza sociale partecipata. Che sì. Vuol dire? Dunque, questa riguardava all'interno della scheda, diciamo, il luogo in cui siamo nati, la nostra mamma, in qualche modo, che è stata la Stecca degli Artigiani, che è stata un'esperienza sociale perché partecipata? Sociale perché è un'esperienza che si lega alla logica del servizio, è una rete di associazioni all'interno della quale noi siamo nati. Partecipata perché attraverso una partecipazione dal basso si promuoveva la riqualificazione di un edificio industriale, e diciamo che è una rete che sopravvive ancora nonostante la demolizione dell'edificio all'interno del quale era nata, e che avrà in gestione uno spazio comunale dall'anno prossimo, probabilmente quando sarà pronta, all'interno del quartiere Isola. E parteciperà alla... Come vi raggiungono gli ascoltatori se vogliono? Dunque, questo è un progetto che si realizzerà in futuro. Al momento siamo in via Tertulliano 70, abbiamo il nostro laboratorio e siamo... Avete anche un sito internet? Abbiamo un sito internet che è www.controprogetto.it. Al suo interno tutti i nostri progetti, sia di design che di progettazione partecipata, che... La cosa interessante di questo laboratorio è non solo l'aspetto progettuale, ma anche l'utilizzo dei materiali. Dove andate a pescare tutti i materiali per costruire i vostri arredi, il legno, tutti i materiali? Sì. Noi diciamo che lavoriamo prevalentemente, quasi unicamente, con materiali di recupero, soprattutto per quanto riguarda la progettazione di interni. Per la progettazione di esterni spesso utilizziamo anche materie prime nuove, quelle adatte o a norma a seconda delle esigenze. Recuperiamo veramente ovunque, i canali sono sia personali diretti che... ed è tutto legale, sì. Assolutamente. Sì. Cioè, no, vabbè, devo fare queste domande io. Assolutamente, assolutamente. Tutto quello che preleviamo, anche quello che preleviamo dalla strada, magari qualche recupero AMSA, questo forse... No, questo magari no. No, però. Questo non lo... Ok. Però allora, questo quando... direi che è l'unica eccezione, perché per il resto normalmente interagiamo direttamente con la Insomma, fornite un servizio comunque. Assolutamente. Beh, sì. E comunque l'idea è quella di avere un impatto ecologico all'interno del sistema produttivo. Quasi tutti i nostri materiali sono di recupero, quindi non vengono abbattuti nuovi alberi. E tra l'altro si risparmia anche l'energia necessaria a ritritare tutto il legno e farne truciolare sempre di qualità peggiore. Quindi noi tendenzialmente cerchiamo di intervenire attraverso questi canali, contattiamo i produttori, le persone all'interno dell'ambiente industriale, così che hanno il materiale da smaltire. Intanto gli ascoltatori milanesi stanno mettendo la prova, si domandano da via Lorenteggio a via Padova 300 quanti giorni ci mettete? La domanda è: ha il servizio di Pony Express via bicicletta? Ma noi garantiamo la nostra consegna urgente in 45 minuti. Io attraverso Milano in 30-35 minuti da nord a sud o da est a ovest. Il signore via... però lo deve testimoniare, cioè è ben man, nel senso che sì, insomma, pedalando è fatto... giovanile, insomma è perfetto, cioè, fisicamente è a posto. Beh, ecco. Diciamo che da via Ripamonti a viale Monza sono circa 13 chilometri, quindi andando anche a 20 all'ora è fattibile. Quanti grammi di piombo nei polmoni? No, anche questa cosa va un po' sfatata. In realtà chi va in bicicletta, ed è scientificamente provato, respira molte meno schifezze di chi sta chiuso in una scatola di latta in coda ad aspirare l'aria mefitica che ci ritroviamo qua a Milano. Poi appunto noi non siamo mai in coda, passiamo nei parchi, davvero ci sono delle prove fatte scientificamente sui residui di inquinanti in un ciclista, in un pedone, in un automobilista, in un motociclista, che danno ragione a questa tesi. Tra l'altro Pierangelo Soldavini, che prima è intervenuto, è ciclista, sì, viene sì, a lavoro sì, in, sì, in sì, bici. Sì, mi muovo in bicicletta, anzi ho lasciato la mia vecchia Vespa ormai in garage, perché ormai mi muovo in bicicletta. Hai visto, abbiamo fatto bingo. Che c'è, non so, che... forse è un secondo lavoro. Assolutamente, sì, però corrono veloce. Però il fisico un po' ce l'ha. Lo specchio del futuro è il titolo della copertina di Nova, che esce domani in edicola, abbinata al Sole 24 Ore. Che raccontiamo questa settimana? Che raccontiamo? Parliamo di futuro, come sempre, su Nova, però con un'ottica particolare, nel senso che ci domandiamo nel 2060, ma forse anche più in là, come faranno gli storici a ricostruire la nostra vita, come noi siamo oggi. E in qualche modo scopriamo che siamo un po' fragili da questo punto di vista, nel senso che sappiamo fare molte coppie, sappiamo raccogliere tante cose, però i supporti digitali su cui conserviamo e memorizziamo perché non ci sarà più solo la lettera apocrifa di Mussolini, no? Quando studiamo la storia ci saranno milioni di informazioni che circolano nei social network, che raccontano la nostra storia, che commentano i grandi fatti. Esatto, che sono tantissime informazioni, però probabilmente i nostri gli storici del futuro non sapranno come leggere queste informazioni. Per cui solleviamo un problema, diciamo. Solleviamo un problema e mettiamo lì, ci facciamo un giochino. Un giochino che però è interessante, perché poi di fatto abbiamo anche scoperto qualche cosa, abbiamo scoperto delle cose che funzionano, delle fondazioni che stanno lavorando per il futuro, ma mi stanno sfumando, per cui io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti. Ah, giusto, il nostro sito per chi volesse saperne di più sugli Urban Bike Messenger è www.urbanbm.it. perfetto, grazie Alessia Maccaferri, grazie Pierangelo Soldavini, noi siamo domani alle 16.30. We'll be right back.